Allora, l'adesione allo sciopero è stata molto alta, più elevata di tutte le altre precedenti occasioni. A Roma si calcola superiore all'80%. I dati più analitici sono, ad esempio, nella Corte d'Appello, sono i dati ufficiali che la Corte d'Appello ha trasmesso al Ministero, sono 472 che hanno aderito allo sciopero, 100 hanno aderito allo sciopero ma hanno dovuto anche lavorare perché assicuravano i servizi essenziali, e soltanto 100 non hanno aderito, siamo su una percentuale superiore all'80%. Ci sono anche percentuali significative in alcuni uffici particolarmente importanti, il 100% alla Corte d'Appello del Lavoro, il 95% alla Procura di Roma. E insomma sono dati molto significativi, l'adesione dei magistrati è stata massiccia, l'assemblea che si è tenuta oggi è stata numerosa, partecipata, sentita, le motivazioni sono numerosissime e possono essere riassunte in una decisa e forte volontà della magistratura di continuare nel viaggio di crescita che l'ha accompagnata dal dopoguerra ad oggi, e cioè quello di assicurare un servizio efficiente quando fosse possibile, ma soprattutto giusto, ispirato ai valori democratici della nostra Carta Costituzionale.